faceva sogni di eroina, ingenua e stupida bambina, e masticava molto pesce, pensava che così si cresce. Sperava che gente importante togliesse via le sue mutande, ma è abbastanza da mostrare quello che tu lei vuole avere. Il ventre immobile e lo sguardo strabico, piegata schiava della sua stessa infelicità. Faceva sogni di eroina, insieme vittima assassina, della sua vita di lamento, la sua coscienza da suo aspetto. Ventre immobile e lo sguardo strabico, piegata schiava della sua stessa infelicità.